passi sul viso, sui capelli, sugli occhi, piena estate, sulla tela cerata, la bottiglia del vino, ma che mosche noiose. Piena estate, più lontani dal mare, con due fette di pane, e profumo al salame. Piena estate, c'è un cartello sopra il banco, da stasera li gettano. A me basta la tua mano, un ti amo detto piano, vale più questo momento. Sulla bici io e te pedaliamo.